Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Benvenuti a un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre. Qui in studio Stefano, Valentina, Carolina. Un ospite di eccezione. Appena arrivata a Bologna e che oggi ho deciso da di... Firenze, vero? Sì, da Firenze. E cosa parliamo oggi? Oggi abbiamo pensato di parlare di Roberto Scarpinato, proprio in relazione alle terribili minacce che ha subito in questi giorni, che ci hanno un po' tutti messo sul chi va là. Sì, bla bla bla, ma adesso parliamo di fatti, cioè che cosa è successo? I fatti sono che il 2 ottobre scorso esce su Repubblica questo articolo. Mi trovo di fronte a questo articolo che mi ha un po' inquietato, perché l'allarme rosso per la sicurezza del procuratore generale è scattato 2 settimane fa, quando per la seconda volta in 20 giorni l'ufficio di Roberto Scarpinato è stato violato. Un carabiniere della scorta ha trovato una scritta inquietante su una porta interna: a cura. In siciliano vuol dire stai attento. Qualcuno ha tracciato delle lettere in stampatello sulla polvere di quella porta che non viene aperta quasi mai. E poi niente, poi io leggevo e dicevo, boh, ma com'è possibile? Sembra di essere tornati agli anni 50. Infatti. E poi ancora, più avanti l'articolo prosegue dicendo, il 2 settembre qualcuno è salito fino alla stanza del procuratore generale per lasciare sulla scrivania una lettera dai toni inquietanti. Lei sta esorbitando dai suoi compiti e dal suo ruolo, hanno scritto. Sembra un riferimento alle ultime indagini sui servizi segreti deviati che Scarpinato sta portando avanti con il sostituto Luigi Patronaggio. Le indagini che sono destinate a restare segrete fino a venerdì, quando i magistrati chiederanno la riapertura del dibattimento nel processo d'appello che vede l'imputato l'ex capo dei servizi, il generale Mario Mori, assolto in primo grado dall'accusa di aver favorito la latitanza di Bernardo Provenzano. Quindi fa riferimento anche ai suoi passati, ai suoi trascorsi, come... Beh, i soliti 20 anni fa, insomma. Sì. Cioè, vabbè, sono storie sempre molto inquietanti da un certo punto di vista. Perché sì, perché sembra che comunque... Sembra non finire mai questa cosa. Già, pensi che comunque dopo Falcone e Borsellino non ci saranno più stragi di persone, di magistrati che si sono spesi, hanno speso la loro vita per scovare appunto i segreti della criminalità organizzata, e invece ancora, come anche è successo a Don Luigi Ciotti, anche a Scarpinato stanno ritornando le accuse. Vale, senti, ma io ho sentito di registrazioni che sono sparite, sono state proprio cancellate. Sai dirmi qualcosa? Sì, infatti il fatto ancora più inquietante di cui parla questo articolo è che, proseguendo appunto la lettura, è che le registrazioni appunto delle telecamere della procura relative all'ora, al giorno in cui sarebbero state portate queste minacce sono sparite, non possono essere quindi analizzate dagli inquirenti, e per questo appunto è un fatto ancora più inquietante, perché sembra che ci sia qualcuno dentro la procura che possa aver favorito questo meccanismo, insomma questo fatto. Ma chi è Scarpinato in tutto questo? Allora, Scarpinato entra in magistratura... No, dai, basta, Vale, io farei una pausa. Lanciamo Down in Mexico dei Coasters. Vai. Va bene, buon ascolto. There's a crazy little place that I know. Dunque, Scarpinato è sicuramente un personaggio piuttosto, un magistrato piuttosto di grande rilevanza, messo appunto quasi alla pari di Falcone e Borsellino, che infatti entra, come dicevo prima, entra in magistratura negli anni Ottanta. E dopo aver prestato servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo nel 91, entra a far parte del pool antimafia collaborando proprio con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Quindi è uno che ci aveva proprio lavorato a stretto contatto con gli due ex magistrati uccisi e che quindi ha vissuto in prima persona anche le indagini sull'inizio della trattativa Stato-mafia, che oltre a una lunghissima carriera, perché si occupa di moltissimi processi, anche famosi, che sono stati molto seguiti da parte dell'opinione pubblica, come quello per l'omicidio dell'europarlamentare Salvo Lima, l'omicidio del segretario regionale del PC, cioè Pio La Torre, di Carlo Alberto Dalla Chiesa, il prefetto di Palermo ucciso, e poi anche l'indagine relativa ai processi di eversione dell'ordine democratico sottostanti alle stragi del 92 e del 93. E tra le tantissime attività che lui ha svolto, indagini a cui ha partecipato dagli anni 80 a oggi, e cariche che ha occupato, vorrei ricordare quella appunto importante secondo me, che nel giugno 2010 viene nominato procuratore generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta. Quindi è uno che è informato molto sui fatti, cioè per i mafiosi è un personaggio molto scomodo al di là di tutto. Sì. Ed è strano che comunque non sia di rilevanza, nel senso, venga fuori solo adesso e nessuno ne abbia mai sentito parlare in questi anni. Al titolo dell'opinione pubblica ci sono poche persone che conoscono Scarpinato. Sì, infatti, per quanto comunque abbia anche scritto dei libri e abbia pronunciato anche prese di posizione piuttosto salde. Una di quelle che mi piacerebbe appunto ricordare, perché è abbastanza forte ed è segno di un grande coraggio da parte di un uomo che sa che comunque può essere benissimo attaccato dai mandanti della criminalità organizzata, e lui sostiene proprio apertamente che in un'intervista dietro le stragi ci sono sempre dei mandanti eccellenti che appartengono alla classe politica, alla classe dirigente, e infatti lui afferma che in questa intervista che gli esecutori delle stragi degli esecutori materiali delle stragi sono sempre in genere fatti poi fuori successivamente. Ma adesso ci ascoltiamo un estratto del suo discorso. Dietro molte delle stragi della storia italiana vi sono dei mandanti eccellenti che appartengono alla classe dirigente. Ne ho indicato uno, ne indico un altro. Il secondo fattore è la sistematica eliminazione di tutti gli esecutori materiali delle stragi che erano depositari di segreti eccellenti e che minacciavano di rivelare i nomi dei mandanti. Tutti gli esecutori materiali della strage del Portello della Ginestra furono assassinati. Io non voglio attardarmi sul punto, ma qualcosa va ricordato. Anche in quella vicenda si svolse una trattativa vergognosa alla luce pubblica. Il bandito Giuliano, che era quello che fece la strage, denunciò sulla stampa il nome del principale mandante politico della strage, dopo essersi reso conto che di essere stato usato e di essere stato scaricato. Si illuse di poter ricattare i mandanti e di contrattare la sua impunità e un rifugio dorato all'estero, continuando a mandare messaggi sulla stampa. Si svolse così per diversi mesi una trattativa. Giuliano che faceva il nome dei mandanti sulla strage e i emissari segreti che contattavano Giuliano. Alla fine lo convinsero che accettavano le sue condizioni, ma che in cambio lui doveva sottoscrivere un memoriale in cui si assumeva la responsabilità esclusiva di quella strage. Giuliano cadde nella trappola, firmò il memoriale e così si condannò a morte. La sua morte, dopo la trattativa, fu addirittura annunciata sulla stampa in un reportage da Montelebre intitolato «Giuliano sa tutto e per questo deve morire». Il giornalista Roberto Iacovello scrisse: «Giuliano conosce esecutori e mandanti dalla strage». E qui il gioco diventa grosso. Giuliano comincia a sapere troppe cose. Se lo prendono, parla. Messani, ispettore di polizia, non lo prenderà, oppure lo prenderà in certe condizioni, morto e con i suoi documenti distrutti, se ne ha. Questo accadeva sulla strada. Proprio perché bisognava portare la trattativa segreta tra Giuliano e i mandanti eccellenti, fu inscenato che Giuliano era stato ucciso in un conflitto a fuoco con i carabinieri, mentre invece era stato tradito e ucciso dal suo luogotenente Gaspar Pisciotta, che era anche suo cugino. A Pisciotta era stata promessa dai mandanti eccellenti l'impunità, ma quando le promesse non furono mantenute e Pisciotta minacciò a sua volta di fare i nomi dei mandanti eccellenti, fu assassinato in carcere con un caffè corretto alla Tarchinina. E insieme a lui, dopo di lui, furono uccisi tutti gli altri esecutori che erano a conoscenza di lui. Per citare un altro caso, vorrei ricordare che il 1 aprile del 1981 fu assassinato nel carcere di Novara Ermanno Buzzi, che era stato condannato in primo grado quale esecutore materiale della strage di Piazza della Loggia a Brescia. Ermanno Buzzi fu assassinato subito dopo che aveva dichiarato di voler collaborare con la magistratura e di fare i nomi dei mandanti eccellenti. Perché ho citato questi precedenti? Non certo per fare storiografia questa sera, ma perché ciò che è accaduto in passato offre un'importante chiave di lettura che può aiutare a decifrare i silenzi tombali di coloro che oggi conoscono il retroscena delle stragi del 1992 e del 1993. L'esecuzione di tutti, l'eliminazione materiale della strage di Portella Ginestra, che avevano osato minacciare di fare nomi dei mandanti eccellenti, è stata, come mi disse una volta il collaboratore Marino Mannoia, una lezione magistralis che gli uomini della mafia militare non hanno mai dimenticato. Potremmo riassumere questa lezione magistralis nei seguenti termini: mai illudersi di poter sfidare e ricattare il potere dei mandanti eccellenti interni alla classe dirigente, perché hanno mezzi e strumenti superiori a quelli della mafia militare e perché, come mi disse Marino Mannoia, cane non mangia cane. Cosa vuol dire? Che alla fine le varie componenti della classe dirigente trovano comunque un accomodamento politico e chi rischia di fare le spese sono gli esecutori materiali che non si adeguano alle transazioni di vertice. That's all I got, unless it's more in this material world. That's all I got, and that's not. Yes, and when I said that day, I got what I got, and I got enough to make my life complete. I got what I got, and I got enough, and it just make me feel free. eccoci giunti al momento più atteso di tutta la puntata, e cioè lo spazio per buffie. Oggi abbiamo deciso di dedicarlo a un cantante delle mie parti, di Reggiano, proprio delle terre reggiane. E chi è, Carol? Parlacene un po'. Allora, questo cantante si chiama Muru Busu e infatti fa parte del collettivo di Reggio Emilia La Cattiveria, già attivo dagli anni 90. I suoi compagni sono Yu-Gi-Oh, il tenente, anche detto al tenente, e Murakaman. E nel concerto di domani al TPO si vede che sei proprio arrivata, appena arrivata, caro. Nel concerto di domani al TPO presenterà il suo nuovo album chiamato Gli Ammutinati del Bouncing, ovvero le mirabolanti avventure di uomini e mari. E questo nuovo album raccoglie tutta una serie di rap racconti che hanno come appunto tema comune quello del mare. E infatti è proprio un intento, uno stile caratteristico di Muru Busu, e che secondo me è molto molto bello, che mi piace molto, è fare una sorta di connubio tra hip hop e letteratura. Letteratura rap. Infatti le sue storie, le sue canzoni, scusate, cioè, si ispirano, sembrano proprio delle storie, cioè sembrano... e si ispirano proprio ad alcuni autori come, che lui dichiara, come Calvino, Sepulveda, Verne, Pavese, eccetera. Quindi merita davvero, andateci tutti. Sembra quasi un professore. E lo è, signori e signori. Lo è, sì, non è il solito rapper stile ghetto con la pistola e la bandana, no, è un professore. Sì, è professore di filosofia presso il liceo classico di Reggio Emilia. E per lasciarci vi lasciamo con le note di Marco Gioca Sott'acqua, che è la storia della crescita e dell'innamoramento di un ragazzo sordo. Buon ascolto. Ciao. Ciao. Sopra una cresta, vive dentro ad un'isola nella testa, e non arriva mai niente dal continente, perché anche se non si sente il mare è sempre in tempesta. E non c'è niente che si muove che Marco non sa, e non c'è niente che qui suoni e già Marco lo sa, e non c'è giorno che non passi che Marco non abbia voglia di cucire suoni e luoghi dentro l'anima. Marco era piccolo, ricciolo, un bimbo vispo, quando guardava il mondo ed il mondo restava zitto. Un bimbo cerca altre strade, contrade sin dal principio, già i pioppi di caprifogli che dorano aria e pulviscolo. Una reggia bruna che asciuga sulla battigia, sapore di confettura, di prugna sopra le dita. Giorni nuovi, venti caldi, girasoli, cento cieli, di spiagge con gli oli argento cuciti dalle onde brevi. Come se fosse arrivato sul canto di mai, poi prima si prese l'isola e dopo bruciò le navi. Ora che l'alba è alta, impatta sulla spiaggia, Marco segue parole che danzano sulle labbra e pensa: quando e come, quando e dove, quanto e come, quale sono le parole che non volano fino qua, e quali sono, quante sono, quando sono, e qui che suono le parole che non giungono fino a, e quali orme, quali forme, quale fonte, qual è il volto del rumore che non giunge mai fino qua, e quale suono, dolce o forte, sempre a volte, quale sorte, non le note che non volano fino a, ma sono uguale davvero, Marco chiedeva a se stesso, più che non sento ogni soffio, ogni tuono, ogni strofo, ogni suono, ogni nota, ogni lalale, quelle parole che van van van, salgono lentamente al cielo, provo a ferrarle ma loro si librano in volo, mi lasciano solo qua. La madre lo sa che dura, lo sa che non serve piangere, il padre che non accetta la vita del suo ragazzo, basta gesticolare, stai fermo, mi sembri un pazzo. Lei che accarezza Marco mentre piange sulle gambe, e gli altri bimbi che ridono sulla spiaggia, si sa che la bestia nera tra i figli quell'ignoranza, qualcuno pensa sia scemo, qualcuno che valga meno, ma tutto ritorna a zero se si tuffano sott'acqua. È un altro modo, un altro suolo, un altro approccio, un mondo nuovo dove tutto tace, va. È un altro scopo, un altro vuoto, un altro luogo, un altro loco, un altro gioco, ci arrivate voi fino a qua. Marco tra i moti ondosi si tuffa da scogli alti, Marco che fa immersioni, Marco che ha già vent'anni, adesso sta sotto tanto, quando va sotto tanto, sotto Marco è felice, là sotto lui come gli altri. E non c'è niente che si muove, non lasci le scie. E non c'è niente che si muove, non apri una via. E non c'è giorno che non passi e che Marco non sia in cerca di una nota, pancia vuota, mangia male. Se Marco pensa a se stesso è drastico e non si accetta, finché un giorno incontra gli occhi di Bella, di Benedetta. Questo è uno sguardo dolce che scalda la brezza fresca. Anche lei vive in un'isola, è un'isola nella testa. La luna in cielo li guarda contar le stelle, fra le onde che si frantumano in piogge di mille gemme. Vorresti sentire tutto, ma in fondo sentiamo tutto. Certo, non con le orecchie, ma con gli occhi e con la pelle. Perché ogni cosa che vive può muovere, uscire ed è vita, si è percepita dal corpo e dalla pupilla. Stessa musica, musica, casse armoniche pervase nel fondo dalla sua vibra. Perché è proprio noi ora care un enigma. Tutto ciò che non puoi te l'ha tolto lo stigma. E fu come risveglio da un sonno profondo, riflesso del mondo, di un sordo profondo. Quando e come, quando e dove, quanto e come, quali sono le parole che non volano fino qua. E quali sono, quante sono, quando sono, qui che suona le parole che non giungono fino a. E quali orme, quali forme, quale fonte, qual è il volto del rumore che non giunge mai fino qua. E quali sono, dolce o forte, sempre a volte, quale sorte hanno le note che non volano fino a. Ma sono uguale davvero, Marco chiedeva a se stesso. Lui che non sente ogni soffio, ogni tuono, ogni strofo, ogni suono, ogni nota, ogni la la la. Quelle parole che van van van salgono lentamente al cielo. Provo a ferrarle ma loro si librano in volo, mi lasciano solo qua, va va va.